Avventurieri, per attraversare il ponte sospeso, dovrete dimostrare equilibrio e sangue freddo. Salirete uno alla volta. Il vento cercherà di farvi vacillare, ma il vostro corpo dovrà restare saldo e centrato. Quando inizierete a inclinare troppo verso destra, sentirete questo suono. Quando penderete troppo a sinistra, sentirete quest'altro. Per raddrizzarvi, dovrete toccare la parte opposta dello schermo, come se vi deste una spinta con le dita per riportarvi in equilibrio. Concentratevi. Un passo falso e il vuoto vi reclama.